tradirmi, il traditore. Perfidissime stelle, quando del mio dolor sazie sarete, ancor voi contendete un peggior sfogo dalle sventure mie. Che forte cielo che mi consuma